E quindi adesso che lo vedo che sto gioco si fa duro, la devastazione mi sbatte le teste sopra il muro. E quindi come proseguire resterà un dilemma, cercando verità dentro il riflesso di una gemma. Wendra c'è con la sua gente che si esalta, e come Tarantino mi risveglio dal tramonto all'alba. E quando vedrò l'alba dopo una nottata vera, capirò che è vera la vita che cambia stile d'atmosfera. So dimenticare per poterlo ricattare, un destino figlio di puttana che ti vuol piegare. Ma ho imparato presto a pararmi la nuca, perché non mi fotto un cazzo se ti piace o se ti è mai piaciuta. Rap nelle vene aumenterà la fotta di una vita mignota. Ti fotte e non tocca, troppe rime chiuse in bocca. Allora X rintocca perché è l'ultimo respiro per chi fa l'ultima botta. Lo sai che è quello che la gente pensa di me, che io vivo in un mondo fatto per me. Lo sai che è quello che la gente pensa di me, che io vivo in un mondo fatto. Quando prendo la matita sforno rime dinamite, sì. Non è che non hanno senso, siete voi che non le capite. Ancora presidi a Tamagotchi dalla micronite, console e videogiochi vi accanite finché non vi rincoglionite. Tu mi copi, fai il pappagallo, Zeus è sull'Olimpo, tu affondo come un corallo. Vi credete tori, siete toi quando ci avete di fronte. Non giro su un Porsche ma a bordo di un rinoceronte. Leva la X e faccio box, togli il beat, faccio beatbox. Abbiamo più rime noi che bagra Microsoft. Zeus più Wendra, scateniamo un macello. Se saliamo sul palco sarà pioggia dall'inferno. Un deficiente si crede più delinquente, sei un pusher perché ti spacci per un rapper. Avete sbagliato totalmente, dovete solo stare zitti. Abbiamo rime così incastrate che l'inventore del puzzle ci paga i diritti. Se sai che è quello che la gente pensa di me, che io vivo in un mondo fatto per me. Lo sai che è quello che la gente pensa di me, che io vivo in un mondo fatto per me. Lo sai che è quello che la gente pensa di me, che io vivo in un mondo fatto per me. Lo sai che è quello che la gente pensa di me, che io vivo in un mondo